Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, in onda dal 2012 per leggere il passato, ma soprattutto il presente, la cronaca e la cultura dal punto di vista degli altri animali, includendoli nella grande famiglia dei viventi degni di considerazione e di rispetto. Come diciamo sempre, vogliamo contribuire in questo modo a costruire una società umana non violenta, una società cruelty free. In questa puntata parleremo soprattutto di carne sintetica, ma anche di un documentario che accusa la pesca industriale e che sta facendo discutere. Parleremo di sperimentazione scientifica sulle scimmie, sui primati non umani e parleremo di orsi prigionieri e di mobilitazioni antispeciste. Ci sarà anche spazio per una rassegna stampa e per tanta ottima musica. Speriamo di avervi incuriositi. Nelle ultime settimane si è accesa una discussione vivace intorno alla questione del consumo di carne, che abbiamo più volte ripreso nelle puntate scorse. I primi di marzo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha affermato pubblicamente che si dovrebbe diminuire la quantità di proteine animali sostituendole con quelle vegetali. Nei giorni seguenti, poi, con l'hashtag Carissima Carne, è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano l'anteprima di uno studio scientifico indipendente sul costo occulto annuo dei consumi di carne in Italia, che ha stimato in ben 36,6 miliardi di euro il costo occulto dei danni provocati sia sull'ambiente sia sulla sanità dalla filiera della carne. Continuando su questo filone, vi proponiamo questa settimana l'articolo di Angelo Zinna, pubblicato il 29 marzo scorso su valigiablu.it, che ci racconta i pro e i contro della carne sintetica. Vi proponiamo alcuni passaggi di questo interessante articolo. La carne prodotta in laboratorio, conosciuta anche come carne coltivata o pulita, non è più fantascienza. Startup internazionali stanno gareggiando per lo sviluppo di prodotti a base di carne sintetica che promettono di essere accessibili, di avere un ridotto impatto ambientale, di liberare i terreni attualmente utilizzati per l'agricoltura animale e anche per evitare l'inutile macellazione di milioni di animali ogni giorno. La carne sintetica è prodotta tramite cellule animali che sono nutrite con sieri di origine vegetale o animale all'interno di bioreattori, permettendo loro di crescere fino a diventare tessuto muscolare. Le cellule utilizzate per avviare il processo sono ottenute o da banche di cellule o sono estratte in modo indolore attraverso biopsie direttamente da animali vivi. In breve, la carne coltivata in laboratorio è carne a tutti gli effetti, carne che però non richiede l'uccisione di un animale. Se tutto questo sia troppo bello per essere vero, è ancora oggetto di dibattito. L'unica cosa di cui possiamo essere sicuri oggi è che la carne coltivata in laboratorio sta arrivando e cambierà il nostro modo di pensare al cibo. Il consumo globale di carne è aumentato del 58% negli ultimi 20 anni. Secondo una ricerca condotta dal World Economic Forum, si stima che ogni anno vengano macellati 50 miliardi di polli, un numero che non tiene conto dei pulcini maschi uccisi nella produzione di uova. Le cifre sono altrettanto alte quando si tratta di animali d'allevamento più grandi, 1,5 miliardi di maiali, 0,5 miliardo di pecore e 300 milioni di mucche, che vengono uccise ogni anno per produrre cibo per il consumo umano. Ciò che scegliamo di mangiare ha un impatto anche su altre specie, dato che enormi quantità di terra vengono impiegate per allevare animali, diminuendo così lo spazio necessario alla fauna selvatica per prosperare. Di tutta la terra non ghiacciata disponibile sul pianeta, il 26% è usato per il pascolo del bestiame, mentre il 33% è usato per coltivare mangime, come riporta la FAO. Attualmente il principale ostacolo della commercializzazione della carne coltivata in laboratorio è il costo di produzione. L'hamburger sintetico sviluppato dal professor Mark Post per Mosa Meat nel 2013 è costato circa 250.000 euro. E anche se nel corso degli anni il prezzo è stato drasticamente ridotto, rimane ancora significativamente più caro del suo concorrente tradizionale. Il consumo di carne è destinato ad aumentare con la crescita della popolazione mondiale. La carne coltivata punta a entrare in entrambi i mercati, sperando di riuscire a soddisfare sia i consumatori di carne che i vegetariani, attenti alle questioni etiche legate agli allevamenti, alla sostenibilità e al benessere degli animali. L'articolo di Angelo Zinna, pubblicato il 29 marzo scorso su valigiablu.it, continua evidenziando poi una serie di paradossi, vantaggi e punti critici della questione. Una dieta a base vegetale, scrive Zinna, sarebbe comunque una scelta migliore per l'ambiente perché l'energia necessaria per coltivare la carne sintetica nei bioreattori continuerà a produrre una quantità rilevante di CO2, almeno nel breve termine. Tuttavia, una transizione globale verso il veganesimo è al momento improbabile, pertanto un approccio pragmatico porterebbe a vedere la carne coltivata in laboratorio come un compromesso accettabile. Se la carne coltivata diventasse ampiamente accessibile, l'ultima barriera da superare sarebbe la percezione dei consumatori. I sondaggi mostrano che la maggior parte delle persone è ancora poco aperta all'idea, vedendo la carne coltivata in laboratorio come qualcosa di innaturale. Non è difficile immaginare un futuro in cui la carne di specie rare, esotiche o persino estinte sia disponibile sui menù di ristoranti per soddisfare la curiosità della propria clientela. E a questo punto, conclude così l'articolo Angelo Zinna, perché non mettere sul piatto anche la carne umana? Qualcuno ci ha già pensato. Il Philadelphia Museum of Art ha ospitato nel 2019 un'opera degli artisti Andrew Pelling, Grace Knight e Orkan Telan, che consisteva in 4 piccole bistecche prodotte coltivando cellule umane alimentate con il sangue. L'indignazione del momento non ha risolto il dubbio. Se fosse questo il futuro, se si annullasse la differenza tra noi e il nostro cibo, e se fosse un cannibalismo senza sofferenza, una carne senza identità, a liberare gli animali? Beh, ci sembra una conclusione veramente interessante, provocatoria, che aiuta a riflettere. Now that I've lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Girl, don't be a bad girl, but if you wanna leave. you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Abbiamo parlato di carne e poiché si parla sempre troppo poco di pesci, ci sentiamo di segnalare alla vostra attenzione l'ultimo documentario targato Netflix titolato Seaspiracy, un documentario che parla dell'impatto devastante che ha l'attività della pesca negli oceani, realizzato dal videomaker inglese Ali Tabrizi e già entrato nella top 10 di decine di paesi, tra cui l'Italia. Abbiamo chiesto al nostro amico Francesco Cortonesi, scrittore e attivista animalista, di recensire Seaspiracy per la nostra trasmissione. Quando furono lanciati i primi allarmi riguardo alla salute degli oceani del pianeta, alcune delle persone che stanno ora ascoltando questo podcast probabilmente non erano ancora nate. Fu infatti alla fine degli anni 70 che le allora neonate associazioni ambientaliste sollevarono la questione dei ritmi della pesca industriale. Le nuove tecniche, supportate da imbarcazioni sempre più performanti, lasciavano spazio a ben pochi dubbi. Nel giro di pochi anni, gli effetti di quella che era ormai una vera e propria vendemmia di pesci sarebbero stati ben visibili a tutti. Oggi, a distanza di 40 anni, la situazione è arrivata quasi al capolinea. Ormai non si parla neppure più del problema della pesca intensiva, ma della sostenibilità della pesca tutta. Non c'è infatti più tempo per le mezze misure. Seaspiracy, il documentario che da qualche settimana, per fortuna, fa discutere anche un pubblico generalista, ci mette davanti a questa realtà. Per chiunque segua, anche solo parzialmente, le tematiche ambientaliste, Seaspiracy appare, o dovrebbe apparire, scontato, quasi banale. Non aggiunge nulla a quello che è noto da anni e che da anni alcune persone vanno ripetendo sostanzialmente inascoltate, quando non addirittura derise. A oggi, il meglio che queste persone possono aspettarsi dalla moltitudine è invece una scrollata di spalle. Evidentemente, a fronte di una sparuta fetta di popolazione mondiale ben consapevoli di ciò che stiamo facendo per fare del male agli animali e a noi stessi, ce n'è una enorme, anche in posizioni di fondamentale rilievo per le sorti del pianeta, che non sa, non capisce o fa finta di non capire. Curiosamente, quando poi arrivano le drammatiche conseguenze, come la pandemia di turno, scatta la gara a chi risulta più virtuoso. Girato dal regista attivista Ali Tabrizi, Seaspiracy ci porta a conoscere i segreti delle industrie del mercato ittico in Asia, Europa e in altre parti del mondo, mostrando come l'inquinamento della plastica sia ormai diventato un problema minoritario. D'altra parte, la cosiddetta pesca sostenibile, che vorrebbe stabilire che nessun pesce è stato catturato o ferito per sbaglio, diciamolo una volta per tutte, non esiste. Quasi interamente accreditata a livello globale dalla Unilever, che fino a qualche anno fa controllava la Findus, si basa infatti solo sulla parola dell'equipaggio del peschereccio, che è come voler fare le multe per eccesso di velocità basandosi sulla parola degli automobilisti. La pesca sostenibile non è altro quindi che un'etichetta per ingannare il consumatore che si convince così di poter mangiare pesce senza danneggiare il pianeta. In tutto questo va poi considerata la questione animale, che dovrebbe essere prioritaria a prescindere. La maggior parte delle persone sembrano essere indifferenti ai pesci, animali che vengono considerati come oggetti o nel migliore dei casi esseri viventi incapaci di provare dolore. E così, nell'indifferenza generale, miliardi di animali vengono uccisi tra atroci sofferenze ogni anno. Sorte migliore non tocca neppure ai mammiferi marini o agli squali, tutti uccisi con una frequenza impressionante, mentre ci crogioliamo nell'idea che la loro vita sia sostanzialmente come quella nel film Flipper. In definitiva, Seaspiracy è un documentario fondamentale, assolutamente da vedere e magari rivedere. paradossalmente, proprio perché, al di là dell'accuratezza dei dati che ci mostra, non aggiunge niente a ciò che tutti noi, di base, dovremmo ormai sapere, e invece, evidentemente, non sappiamo, o più realisticamente, facciamo finta di non sapere. Lo trovate su Netflix. Il sogno del miliardario sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk di unire cervelli e computer sembra avvicinarsi di un passo alla sua realizzazione. Un video pubblicato su YouTube dalla sua startup americana Neuralink mostra un macaco dotato di un impianto neurale mentre gioca al videogame Pong, usando solo il pensiero per muovere le barre che simulano sullo schermo le racchette da ping pong. Paige è un macaco di 9 anni che in un articolo che abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano del 13 aprile viene descritto come una simpatica scimmietta addestrata a muovere il joystick in cambio di un frullato di banane di cui va ghiotta, mentre il chip registra la sua attività cerebrale. Il nostro primo obiettivo è restituire alle persone con paralisi la libertà digitale, afferma il team di Neuralink nel post. La libertà del macaco Paige di vivere una vita fuori dai laboratori scientifici e fuori dall'alta tecnologia è però ovviamente esclusa dal discorso di Elon Musk. Il delirio di onnipotenza umano e la cultura utilitaristica e tecnocratica rappresentati da esperimenti come questo impediscono di considerare la scimmia come un nostro parente molto prossimo, facente parte, come l'uomo, del regno animale, quindi dotato di volontà, di un corpo delicato e vulnerabile che desidera la vita e la libertà. Approfittiamo di questa occasione per ricordare che l'orrore della sperimentazione animale non è prerogativa del miliardario Elon Musk e che proprio in questo momento l'Università di Parma sta addestrando 5 macachi ai quali verrà chirurgicamente danneggiata un'area della corteccia cerebrale in modo da comprometterne significativamente la vista per poter poi studiare alcune patologie umane. Al termine di questi studi, naturalmente, i macachi verranno uccisi. È un tipo di scienza crudele e inumana che non ci sentiamo di difendere. La pandemia, nata con ogni probabilità da una zoonosi, un salto di specie del virus dai selvatici all'umanità, ha dato alla questione animale una maggiore visibilità sui media mainstream. Concentriamo oggi l'attenzione su tre articoli usciti negli ultimi giorni. Il primo è un intervento di Dacia Maraini sul Corriere della Sera, intitolato «Noi e gli animali e le scelte sbagliate». Scrive fra l'altro Maraini: «Se potessi, obbligherei i grandi mangiatori di carne ad andare a visitare un allevamento intensivo, cominciando dall'odore che brucia le narici e dà voglia di vomitare, e poi le povere bestie ammassate a migliaia, che siano galline ammucchiate le une addosso alle altre, o maiali imbottiti di farina di pesce e di soia, chiusi dentro gabbie dove non possono neanche stare in piedi, o vitelli, costretti a ingurgitare ormoni per crescere in fretta. E più avanti, non voglio parlare di pietà, di strazio, a vedere quegli occhi disperati che chiedono aiuto, perché sarei subito accusata di buonismo. Voglio parlare di interessi collettivi, di futuro per le nostre società. Ancora, per nutrire questa enorme quantità di animali da macello, se ne va un terzo della raccolta di cereali, nonché un terzo del pesce pescato. Se ricordiamo che 690 milioni di persone soffrono la fame e la sete nel mondo, statistiche ONU, ci si può chiedere se non sia assurdo lo spreco di cereali, soia e pesce per nutrire animali da macello. La conclusione dell'articolo in verità non è molto avanzata, è questa. La Organizzazione Mondiale per la Difesa degli Animali da Allevamento ripete che non vuole eliminare la carne in tavola, ma chiede solo che si trattino gli animali da allevamento con umanità e rispetto nei riguardi delle loro necessità vitali. Un poco di immaginazione, per favore. La carne viene da un corpo, non dal frigorifero. Così Dacia Maraini. Un ampio servizio uscito su Repubblica racconta la genesi di un documentario intitolato in inglese My Octopus Teacher, traducibile come Il polpo mio insegnante, ma presentato nella versione italiana col titolo Il mio amico in fondo al mare. Racconta la storia di Craig Foster, che per un anno nel mare di Cape Town in Sudafrica ha intessuto uno stretto rapporto con un polpo femmina. Il documentario mostra le grandi capacità cognitive e relazionali degli animali. Per molte persone il polpo è come un alieno, dice Foster. Man mano che ti avvicini ti rendi invece conto che sei molto simile a questa straordinaria creatura. Nel commento che Repubblica ha messo a fianco al pezzo principale, Luca Fraioli riflette sul significato di questa storia e dice: «Anche in un paese antropizzato come il nostro, persino nelle nostre città, ci si può imbattere in piante e animali capaci di insegnarci quale dovrebbe essere il nostro posto fra loro. Da qualche secolo abbiamo invece deciso di essere contro di loro. E gli effetti, dalla pandemia all'emergenza climatica, non hanno tardato a manifestarsi. Anche per questo è giunto il momento di deporre le armi». Il terzo articolo che segnaliamo è pubblicato dal Corriere della Sera e Antonio Pulito parla del libro di Jan Monaut, Bestiario nazista, pubblicato da Bollati Boringhieri. Il titolo dell'articolo è La nera fattoria degli animali del Terzo Reich, con un chiaro riferimento orwelliano. Il libro parla del complesso rapporto del nazismo con gli animali, sia sul piano pratico sia su quello simbolico. Pulito comincia scrivendo: «A smontare la leggenda dei nazisti animalisti, precursori di una sensibilità moderna verso gli animali, ci pensa il gatto, che i nazisti disprezzavano perché perfido, falso, asociale, prodotto finale di una razza straniera e imprevedibile che, secondo le loro teorie, veniva dall'Oriente, gli ebrei fra gli animali». E la conclusione di Pulito è questa. È dunque chiaro che non un precoce animalismo, ma una follia razziale dominava i rapporti fra i nazisti e le bestie. Torneremo su questo libro in una prossima puntata. Prima di chiudere, visto che abbiamo parlato dell'orrore della sperimentazione animale, ci sembra importante dar conto dell'esistenza di un sano dissenso nei confronti di queste pratiche speciste. Ci sono anche voci che prendono le distanze dalla violenza e dalla prepotenza continuamente perpetrate nei confronti dei non umani. Va in questa direzione la manifestazione che si è tenuta sabato scorso, il 10 aprile, a Trento, per chiedere la liberazione degli orsi M49, JJ3 e M57. I tre plantigradi che l'amministrazione della provincia autonoma trentina sta detenendo ingiustamente nel piccolo, inadeguatissimo recinto del Casteller. al corteo organizzato dal Centro Sociale Bruno e dall'Assemblea Antispecista con la partecipazione dei volontari dell'OIPA hanno partecipato attivisti e attiviste provenienti da tutta Italia. Chi oggi è sceso in piazza lo ha fatto al fianco degli orsi, hanno dichiarato alcuni manifestanti alla stampa. Vederli rinchiusi in quelle condizioni ha fatto crescere l'indignazione e il desiderio della loro liberazione. Torneremo e finché la persecuzione degli orsi non finirà, ci troverete al nostro posto, a fianco degli orsi ribelli. Noi della redazione di Restiamo Animali ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla mobilitazione per la liberazione degli orsi e ricordiamo che è disponibile il podcast della nostra puntata speciale sugli orsi detenuti al Casteller con le voci delle due cittadine che hanno portato avanti un digiuno di protesta per oltre 60 giorni chiedendo la scarcerazione degli orsi prigionieri. Si tratta del podcast della puntata numero 567 di venerdì 11 dicembre 2020 che vi invitiamo a cercare nella nostra pagina www.restiamoanimali.it. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que no hay uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que estamos de prestado, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado, depende, depende. Que depende de según cómo se mire, todo depende. Depende de que depende de según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione di ieri e di oggi, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 586 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.